Guglielmi Igor. Che lavoro fa? Falegname. Cosa fai di solito? Di solito faccio arredamenti interni, dal armadio, letto, rivestimenti, camere, soggiorni, cose così. Come me. Quanti anni hai? 46. Perché hai scelto questo lavoro? Perché ho sempre avuto la passione del legno. Ha fatto altri lavori in passato? In passato ho lavorato in una ditta che faceva sempre arredamenti, però invece che fare il falegname ero in ufficio, disegnavo. Cosa l'ha portata a fare questo lavoro? L'ha portata a questo lavoro? Allora la passione per il legno l'ho sempre avuta, poi ho lavorato appunto per anni in questa ditta di arredamenti e come hobby facevo mobili per me o per amici, e quando la ditta è praticamente fallita ho deciso di mettermi in proprio e farlo come lavoro e non più come hobby. A che età hai iniziato a fare il suo lavoro? E allora che ho fatto questo lavoro proprio come lavoro principale nel 2013, quindi avevo una quarantina d'anni. Bene, posso fare prego. Una domanda? Allora, per realizzare, diciamo, questo lavoro, questo tipo di lavoro, lei quali studi ha affrontato? Perché abbiamo visto, no, che ci ha detto che ha lavorato prima in una ditta e che ha avuto questa passione, però giusto perché loro sono, no, nell'età in cui devono anche un po' scoprire quale potrebbe essere il loro eventuale percorso lavorativo e di studio. Che tipi di studio ha fatto lei? Allora, io ho fatto le IT, sono perito informatico, però poi i computer non è che mi piacessero granché, quindi poi finita la scuola, diciamo, ho fatto un 6 mesi di quei corsi che c'erano all'epoca finanziati dalla Comunità Europea in un'azienda di Rimini che costruisce macchine per il legno, e lì si faceva un po' di tutto, dal disegno tecnico piuttosto che usare una macchina, programmazione di macchina a controllo numerico e niente, ho fatto cose così. Certo, per specifiche. E c'è un'altra domanda, come si chiama il cane? Ulan. Okay. Ecco, questa è proprio questa è la più semplice di tutta. E qualche consiglio se qualcuno di loro avesse intenzione nel loro futuro di aprire un'attività simile? Beh, il lavoro ce n'è, è un'attività che comunque ti dà da vivere, però è un'attività che devi averla come passione, perché ci devi mettere del tuo tutti i giorni, non è che puoi fare una cosa così tanto per fare. È tornato tanto, vero, questa cosa della passione nelle altre interviste, vero? Cioè, poi altri temi che sono tornati, che potremmo, come dire, chiedere, visto le altre interviste che abbiamo fatto? Chi ti ha trasmesso la passione? Allora, la passione l'ho avuta principalmente io. Avevo mio nonno che anche lui piaceva fare lavoretti così, allora da piccolo gli davo una mano. Da piccolo avevi qualche passatempo? Mi piaceva andare nei boschi, intagliare legni con i coltellini, cose così, e niente, andare a camminare in montagna. Da dove provengono i materiali che possiamo notare qui? Cioè, allora, alcune cose sono comprate, per dire questa tavola è comprata, però per dire i materiali quelli lì provengono da case che vengono, diciamo, smantellate. E quindi io recupero dei legnami, travi, legni, poi magari anche le portine della stufa, cose che buttano via. E per dire quelle scritte lì sono delle scritte che c'erano sulle vecchie macchine da cucire. E poi qualche attrezzo vario che ci ho attaccato su, le accette anche, sono cose. Poi mi sembra che piace molto lavorare di fantasia, di fare nuove combinazioni. Sì, ci metto un po' di quel poco di artistico che ho, diciamo, cerco di. È stata una richiesta della clientela o è partita come tua passione di assemblare legno vecchio? Beh, allora adesso c'è la moda comunque del recupero e quindi è, diciamo, il cliente che ti dice cosa vuole, però per dire in posti di montagna come il nostro il legno vecchio comunque fa parte dell'ambiente, quindi proporlo anche a chi magari viene dalla città e si porta via un pezzetto di cosa di cose nostre, vedo che è una cosa che va molto. Per dire, anche quelle lampade che ho fatto qua fuori con dei pezzi di legno vecchio, piuttosto che un lampadario appunto così con una vecchia trave, e li ho venduti anche a persone che abitano a Milano piuttosto che Padova e l'hanno messo in case super moderne. In media quanto tempo occorre per realizzare un mobile? E dipende se il mobile appunto è fatto di legno oppure se è fatto, per dire, di pannelli tipo nobilitato così. Allora, questo in una 3-4 giorni riesci a metterlo assieme. Se invece è di legno diventa un po' più complicato, perché devi prendere le tavole, sezionarle, piallarle, ritagliarle di nuovo a misura giusta, levigarle, verniciarle e dopo metterle insieme. È molto più... Ci vuole molta pazienza. Molta pazienza. Ma infatti questo giorno tu l'avevi fatto con le tavole. Sì. Ma l'avevamo andato noi. Esatto, quelle le vecchie tavole del nonno. Soffitti. Sì. C'è una domanda? Ma le fonti sul soffitto le ha attaccate lei da solo o si è fatto invitare? Beh, queste qua le ho attaccate da solo. Dopo, per dire, quella là che era grande, mi hanno aiutato e poi sì. Queste qua le ha dipinte mia nipote, che sono delle vecchie lame che avevo, invece che buttarle via, le ho fatte dipingere, le ho attaccate. Molto bene. Vi piace questo modo di arrivare? Sì, a me tantissimo. Infatti complimenti. Adesso mi metto due lacette sopra il soffitto. Sono dell'idea che uno deve trovarsi, cioè crearsi il posto di lavoro che sia anche bello esteticamente, perché cioè, se uno lavora in un posto che gli e piace, che ti rappresenta anche. Lavora meglio. Ti rappresenta, ma anche chi sì. Entra conosce molto di te velocemente, perché hai un approccio no, sicuramente creativo, con l'idea di avere, di riusare gli oggetti. Avete mai pensato? Il pavimento che l'ho fatto di legno, e l'avevo visto in una falegnameria in Alto Adige e quando ero molto più giovane. E infatti mi sono detto, se mai me la farò anch'io, metterò giù anch'io il pavimento di legno, perché è proprio cioè, una cosa che mi piaceva. Che poi prende quell'aspetto, diciamo, usurato rustico, così. Sì. È bello. Ci dà anche quell'aspetto di rustico. Ma oltre che a mobili, vende anche attrezzi? No, gli attrezzi, allora, quelli vecchi li prendo per collezione, diciamo, perché mi piace tenere attrezzi vecchi. E gli altri sono tutti gli attrezzi che uso per il lavoro. Ma tu quando lavori? Con i vecchi attrezzi che non usi, tipo rotti, li riutilizzi per fare pezzi di mobili, tipo? Beh, mi è capitato di fare dei pezzetti di mobile con magari un attrezzo vecchio, magari una specie di gamba di un altro tavolino, di un altro attrezzo che veniva usato magari in agricoltura. Ho fatto delle gambe di un tavolo e magari con un pezzo di un altro attrezzo ho fatto qualcos'altro. Con le vecchie catene, per dire, quelle che usavo una volta per attaccare i paioli sopra il fuoco, faccio i sostegni per i travi, per i lampadari. Con le portine, quelle lì ho fatto un mobiletto, quelle sono portine di stufe vecchie. Che legni si usavano una volta per costruire i mobili e si è cambiata adesso? La tipologia di legno che si usava una volta rispetto a quella che si usava una volta, i mobili, per dire, quelli di qualità li facevano tipo di ciliegio, di noce. Adesso invece ciliegio, noce non si usano più, adesso va di moda l'abete sbiancato piuttosto che il rovere, l'arice, legno vecchio, va molto anche in base alla moda.